Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima in angoscia ed uno spirito angustiato grida verso di te. Ascolta, o Signore, ed abbi pietà, poiché abbiamo peccato contro di te, perché tu rimani in eterno, mentre noi periamo per sempre. O Signore onnipotente, Dio d'Israele, ascolta la preghiera dei morti d'Israele e dei figli di coloro che hanno peccato contro di te, non avendo ascoltato la voce del Signore Dio loro, per cui i mali si sono attaccati a noi. Non ricordare l'ingiustizia dei nostri padri. Ricorda invece la tua mano e il tuo nome in questo tempo. Tu, infatti, sei il Signore Dio nostro, e noi ti lodiamo, Signore. Per questo tu hai immesso il tuo timore nel cuore nostro, perché possiamo invocare il tuo nome. Ti lodiamo anche nella nostra prigionia, perché abbiamo eliminato dal nostro cuore ogni ingiustizia dei nostri padri che hanno peccato contro di te. Eccoci oggi nella nostra prigionia, dove per vergogna ci hai disperso a maledizione e a condanna per tutte le ingiustizie dei nostri padri, i quali si ribellarono contro il Signore, Dio nostro. Ascolta, Israele, i precetti della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Cosa è accaduto, o Israele? Cosa è accaduto per cui ti trovi in terra nemica ed invecchi in terra straniera, contaminato con i morti e annoverato con quelli degli inferi? Hai abbandonato la fonte della sapienza. Se nella via di Dio avessi camminato, abiteresti in pace per sempre. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è longevità e vita, dov'è luce degli occhi e pace. Chi ha scoperto il suo luogo e chi è penetrato nei suoi tesori? Dove sono i principi delle genti e i domatori delle belve che sono sulla terra? Quelli che giocano con gli uccelli del cielo, gli accumulatori di argento e di oro in cui gli uomini confidano, non ponendo un limite al loro possesso, quelli che con cura lavorano l'argento e non si scopre il segreto delle loro opere, sono scomparsi e discesi negli inferi, mentre altri sono sorti al loro posto. Nuovi giovani videro la luce ed abitarono la terra. La via della scienza però non la conobbero. Non compresero i suoi sentieri né la raggiunsero. I loro figli sono rimasti lontano dalla loro via. Non se ne ebbe notizia in Canaan, né fu in Teman. Neanche i figli di Agar, ricercatori di saggezza sulla terra, i mercanti di Merra e Teman, i narratori di miti e ricercatori di saggezza, conobbero la via della sapienza, né si ricordarono dei sentieri suoi. O Israele, come è grande la casa di Dio ed ampio il luogo del suo possesso, grande e senza fine, eccelso e senza misura. Là nacquero i giganti, uomini famosi fin dal principio, di grande statura e addestrati alla guerra. Ma questi non scelse Dio, né diede loro la via della conoscenza. Perirono perché non ebbero la prudenza, perirono per la loro stoltezza. Chi ascese in cielo per prenderla e la condusse giù dalle nubi? Chi attraversò il mare e la scoprì e l'acquistò con oro raffinato? Non c'è chi conosca la sua via né chi comprenda il suo sentiero, ma chi tutto sa la conosce, l'ha trovata con la sua intelligenza. Egli che per sempre ha formato la terra e l'ha riempita di quadrupedi. Invia la luce ed essa va, la chiama ed essa gli ubbidisce con tremore. Gli astri brillano gioiosi nei loro posti, li chiama ed essi rispondono presente, e brillano con gioia per il loro fattore. Questi è il Dio nostro, nessun altro è a Lui paragonabile. Ha scoperto ogni via di conoscenza e l'ha data a Giacobbe suo servo, ad Israele suo prediletto. Per questo sulla terra è apparsa e con gli uomini ha conversato.